Brecco? Chi è? Hola, Brecco, Brecco. Hola, binario 10. Avanti, che chiama sul 10. Ok, buonasera. Ben sentito, Roberto. Ciao, chi sei? Gufo. Ah, ciao Gufo, ben sentito, non ti avevo riconosciuto. Ma hai fatto qualche modifica alla stazione? No, veramente sono 5 mesi che non accendo questa radio. Com'è bella? Forte e chiara, 9 più 20, radio 5. Cappa, ciao. C'è Luca, c'ho anche il PMR acceso. Luca Manicomio. Eia, ma sempre di Madelta sei tu? Sì, al Bronson. No, sta andando bene, alla grande. Anche a me, dammi un controllo, se me lo puoi dare anche a me, che visto che sei la moto che non mi senti. Fortissimo, la bomboletta, chiaro, forte, forte. 9.30, fai che guardo. Eia, ok, 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Poi nel frattempo se qualcuno vuole entrare, qua compagnia di Graziano Gufo Triste, Graziano così, mi pare che ti chiami Graziano Gufo Triste e Roberto Quadrato da questa parte. Eia, giusto, Graziano Gufo Triste, anche se mi chiamano Gufo, già davvero ma stesso. Ehi, a qualche volta ti ho sentito sul 23 insieme a Gio Maria, anche a Gio Maria sono andato, vabbè io sto entrando poco e niente, mi entro qualche volta la sera, così, magari il periodo del Covid sono entrato un po' di più, ma vi sentivo qualche volta sul 23 con Gio Maria e poi la buona anima di Benito mi sembra qualche volta, se non sbaglio, no? Ehi, ha registrato il break, anch'io non ti credere che sto entrando molto, mi sto guardando la TV. Io ho fatto quel programma di Netflix e ci sono un casino di film lì da guardare. Avanti il break. Scusate, mi telefono un attimo, riprendo subito. Ok, ciao, buonasera, ben sentito. Chiodo. Da questa parte Gufo. Come segnale se segnale 8 radio quasi 5 là, che si sente abbastanza bene. Qualche volta qualche interferenza, magari si copio bene, da muros. Aspetta che sto rispondendo a Luca. Sono rientrato. Ma hai cambiato radio, Cla? Quella che usavi sempre, dico. No, sta andando bene, c'è un pochettino di rumore di fondo, non so se sia l'alimentatore o che cosa, o qualche vento, appena sotto sento qualche di alternato. E un pochettino, cioè non parlare, manda solo portante. Ce l'hai un pochettino, non è fastidiosissima, però si sente. Sì, assolutamente non posso dire niente. L'unica cosa, questo rumore che si riesce a percepire. Dimmi una cosa, andava bene quella specie di porta, come si chiama? Porta computer, porta libreria. Ah, ci mancherebbe, siete amici, poi quando c'ho cose che possono essere utili a qualcuno, perché buttarle era un peccato. Qua in casa ho fatto già la vita come la stazione mia, non ci sarebbe neanche spazio dove metterla. Forse c'ho anche una sedia girevole, mi sembra. non l'ho data via, c'ho anche una sedia a girevole, devo controllare. Sì, assolutamente, devo guardare, al 90% ce l'ho, non è un granché, non è di quelle in pelle da studio, eccetera, eccetera, è una sedia girevole semplicissima, niente di più, di quelle, non dico da battaglia, dai, un pochettino più economica di quelle che qua in stazione ne ho una, anzi ne ho due, dove mi siedo io è tutta in pelle, di quelle grosse con la schiena alto, regolabile, a molla, ammortizzatori, cioè, è una sedietta semplicissima abbinata a quella roba lì, però è utile perché è girevole, te la metti e fai quello che vuoi. Da, dovrei guardarla, me ne avevano dato sì, dovevo andare sempre a ritirare, ma belle, belle veramente, non ci sono mai andato, ma lì ci sono ancora, se non le hanno date via eventualmente mi faccio dare una di quelle. Eia, no, io l'ho data insieme alla scrivania, l'avevo fatta a blocco nella buccia, mi sono venduto. Vabbè, già la troviamo, non ti preoccupare, già la togliamo da sottoterra nella Gavemmo, come si dice qua dalle nostre parti, Claudio. Comunque le ha messe le radio in quella specie di cosa che ha dato porta computer. Eia, non c'è problema. Cosa ti volevo dire? Sta facendo qualcosa della radio di tuo padre. Come fate per commutare le antenne? Ti avete fatto una calata, poi ci avete un commutatore d'antenna, ogni volta devi staccare il cavo. Mi sa che si è allontanato. Come ti arriva Gufo a te? No, c'è una vita questo qua, molto prima di me, non so esattamente quanto, ma era del gruppo di Gio Maria, Benito, tutta quella gente lì. Io era molto che non lo sentivo, ma qualche mese fa era capitato un attimino di sentirlo con Gio Maria, loro stavano sul 23 normalmente. Sai che chiamo io, attenzione Graziano, se ci sei batti un colpo. Non c'è. Vediamo, facciamo una chiamata generale, su 10 se qualcuno vuole entrare, avanti con la buonasera. Due secondini di bianco, lascia Claudio e vediamo un po', se non riprendi tu. Nulla, riprendi. Diciamo sono radio vecchi e piano piano qualche difettuccio te lo tirano fuori. Un'altra cosa, quell'amico vostro Nicola, di quella sonda del Bird, del wattmetro, niente, ti ha detto qualcosa? Sì, sì, la cifra, il valore è quello lì, però siccome io ne ho due di quelle sonde, magari a qualcuno serve per quella frequenza che ho io, gli aggiungo qualcosa, dai, perché tanto più o meno il valore è quello lì, quello che mi ha detto lui non è che cambia in base alla frequenza, perché magari è anche la potenza che influisce, se ne prendi uno magari da un kilowatt di sonda, costa meno, costa un po' di più di quella da 100 watt per dire, le frequenze più o meno sono quelle lì, i costi sono quelli. Andiamo. Un attimo, sì, 2.30, avanti chi voleva entrare, che chiamava Roberto? Che avanti? Hanno parlato quando stavi parlando tu, ho sentito Roberto, avanti chi vuole entrare? Vabbè, riprendi tu Claudio, non lo so, ho sentito Roberto chiamando, e tuo babbo dov'è? Lavorando sta? Non ha quella compressor? No, ho detto compressor, la versione con compressore volumetrico, no, non compressore di verniciare. Una cosa, Ottavio vive per conto suo, non vive in casa vostra. Ehi, piano piano già si fa, ma quindi si fa tutto lui, mangia lui, mangiare lui si fa, eccetera eccetera, e diciamo già è buona la situazione, anche se per certi versi può essere scomoda, perché tu arrivi a casa tua, trovi già tutto pronto, tu invece se non prepari non mangi. Sì, oggi ha fatto caldo, io sono sceso per Daniele da oggi verso le 11 e mezza, c'erano 26 gradi, figurati se ti metti sotto il sole e ti scalda un po', però la sera le temperature si abbassano parecchio, godiamocelo sino a venerdì questo caldo, perché sabato e domenica e lunedì piove e si abbassano le temperature soprattutto da lunedì in poi. Già lo so, soprattutto non ci sono colline davanti e cos'è. Stavo dicendo, ma ancora tempo di asparagi? Io forse domenica no, domenica è Pasqua. Se lo sarei voluto provare o sabato sera, ce ne sono ancora, periodo è già passato. Ma tu lasci la bicicletta da parte e poi prosegui a piedi o vai tutto con la bicicletta? aspetta, facciamo un attimo di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare, se sono i 10 che vuole entrare, vabbè, riprendi tu. Stavo dicendo, come mai a momenti c'è questa specie di rumore di alternata sotto e altri momenti no? Forse deve scaldare l'apparecchio. Sicuramente l'umidità fa male, danneggia tutto, soprattutto non ci sono componenti elettroniche. Volevo dire, quella americana, quella che ti ho messo il mi piace, ho commentato, quella lì è, come si chiama, 23 canali. Questa qua che sta usando è la migliore di tutto, a parte oggi sento questo ronzio sotto, non è fastidioso però si sente, probabilmente il cavo microfonico, hai provato a spostarlo da un'altra parte, a girarlo dalla parte opposta dove c'è l'alimentazione, lo stato di alimentazione, perché il cavo microfonico molte volte se non è bello schermato può prendere dei residui di disturbo e ci può entrare dentro. Puoi bloccare e spegnere il coso, la stufetta, farlo pulito senza niente. Sì, ce l'hai un pochettino, quindi il problema è dalla radio, non è dal coso, dall'applicatore. Mettici la mano sopra l'involucro, ci riesci a mettere a parlare con la mano sopra l'apparecchio? Sul coperchio superiore della radio, quando stai parlando, mettici il coso sopra e vediamo se diminuisce. Non parlare però. Fai la prova con la mano e senza. Ma non devi parlare però, fammi la prova, mi metti un secondo la mano e dicimi così sulla mano e stai zitto. E poi rifai la stessa cosa senza la mano. Qualcosina diminuisce quando metti la mano sopra. Schermatura, bisogna vedere qualche cosa, qualche massa, magari aggiungerci qualche massa tra l'involucro esterno, il coperchio e la parte, la base dove ci sono le cose. Ma tante cose, può essere anche il microfono, magari la massa del microfono che non è molto efficace. Però adesso, caro Claudio, ti devo lasciare perché mi ha chiamato mia figlia, devo andare da lì. Ci sentiamo, sempre piacere ascoltarti, saluto a tutti in casa e poi ti cerco con la girevole, vediamo un pochettino e ti avviso. Ciao ciao, buon proseguo di tutto. Chi è? Oh, il Cristianello. Giulio, con Gian Maria nel PMR so. Il PMR, sì, è solo un giorno senza accenderlo io. Sono da molto senza accenderlo. L'ho acceso adesso. Adesso, infatti c'era Roberto Quadrata e Chiodo Ruginito che mi sa che hanno ucciso adesso. Stava andando sul 23. Ho capito, grazie. Va bene, dai, vai. Se devi andare, vai, non c'è problema. No, io ho acceso adesso, al primo impatto non c'era nessuno, poi ho dato due colpi importanti e si è arrivato tu. Perché prima di entrare tu stavo parlando con Roberto il Quadrato, chiedo Rugginito, da Muros. Però poi mi ha chiamato la zia di mia moglie, anzi subito devo andare a fare l'insulina. Da preso che ci da Sarrano Cancella che la bicchia. Da poi mi ha chiamato mia moglie e non ha più famigliato né manco, né con Roberto né con Vito. Da poi mi ha chiamato a Rudere. Mi aveva arrivato un cagnolino di mia figliola, a Esetta. Vabbè, andare grazie, andare. Ti ha mandato una canzone, ti ha mandato, l'hai visto? Con te così. Bella, aspetta che ti richiamo, che gli devo dare cosa a mio figlio. Va bene. Giulio, ci sentiamo che vado a fare l'insulina alla zia di mia moglie. Dai, ci sentiamo allora, ciao, ciao, saluti in casa, ciao. Ciao Giù. C'è qualcuno su 10? Attenzione, canale 10, K, copiate Antonio, hai intendito oggi. Mi sono addormentato, capito? Sì, io ti preoccupare, non ho nessun problema. Ti ho chiamato, mi serve la risposta, aspetta. E stavo facendo cosa? Mi ha rubato più tempo, pensavo di fare in fretta invece. A casa siete, 9.40 qua. Da, sei al monte. Sì, sono arrivato poco fa. Ho mangiato mezza vela. Boh, la volta notte è a dieta. Si imbuffano, cioè, anche che non piace mangiare a tutti, a me piace un bel mangiare, un bel. Ciao, perché a me non mi piace, ho bisogno che ti dica che una draga bisuria, c'ho qualche po' di palo entrato, mi sa che la salgo più su, ma boh, mi bago, usci, sabbiellocce. Vabbè, lo so, bisogna stare attenti col mangiare. Perché secondo cosa mangi il veleno, Purtroppo, molte volte ce ne freghiamo. Adesso prendiamo mamma. Un esempio mia madre. Per lì lo zucchero è veleno. Poi continua sempre a mangiare quello che... Luca! E Anto, cioè te le sto mettendo una zuppa a vendere, aspetta. Ehi, a capo, dai. E Maria sta vendendo la zuppa, tu. Compresa di tubi. L'unico problema che ha è riuscire a cambiare la candeletta che costa una ventina, trentina di euro. Quella che accende il pellet. Però scalda che è una meraviglia. 500 euro la sta vendendo. Lei l'ha pagata 2 anni fa, 1000 euro. E che tu fai? Tu fa pellet. Cazzo. Perché se lo sta vendendo, non gli piace. No, ci hanno tolto le mani, ogni volta a pulire, cazzo, pulire i tubi, pulire il tubo, no. Vabbè, i tubi li pulisci quando finisce la stagione, che inizia il caldo e smonti e pulisci. Ero già di male, tu, cazzo, pulirla. Ci hanno tolto le mani, ci vuole mettere il condizionatore grande. Di luzzi, di rendere un calore. No, ma non ti... No, guarda, non è uscito. Vabbè, ma non è mai la tua pelle, ti scalda molto di più. Ma chi sa fare, ragazzi, è la fretta. Lo so. Ci vuole... bisogna pulirla, bisogna farla, non è che... Cosa bisa, l'ascensore. C'è l'ascensore per portarla giù. Ma stai scherzando, stai, mio non lo so fa bene, ti dice già 250 kg. Cosa ci dice? È una piuma ghiglia. Abbiamo io e tu la commessa, io ci stai, scommetti. Potevo venire tu. Non diciamo tornare alle scale, metti l'ascensore, poi scendi giù, o ti porti un carrello, ma si può anche caricare tranquillamente, anche là, se non vedi, se non l'ho portata via, l'altra ce l'aveva prima. Cazzo, io non mi dice che ho bisogno io, cazzo bisava un trono, bisava. Ah, vabbè, la doia. Hai detto non è pesante. Capito? Non è pesante. Provi, certo. Tante giornate a piedi, ma tante però. Devi fermarti ti devi mangiare, ti devi bombarmi. Che fa? Io tanto quando passava che moto, mentre un coso mentre, un motorino. Se c'è il filtro? No, non lo vedo perché se no poi sento, alcune modulazioni non le sento bene. No, io non le sento, se le vuoi il filtro sì. ANL. ANL si chiama, si vede. Sì, ANL. NV. Ce l'ho pure io, però cosa succede? Che certe modulazioni forti mi strappano se metto quel tipo di filtro. L'ho dovuto togliere. Ah, capito. Vabbè. Purtroppo sono... Lo fa. C'era un periodo che faceva delle TV allucinate, anche le TV stavano le moto. Adesso che analog digitale, Kappa, va del buco di gasino. Già lo so. Ci senta la TV? Sì che si sente. Ma no, qua non è ottico, ce l'ho giù, ce l'ho. Lo sai che non mi sta funzionando, beh, prima che salga qualche giorno. Cosa cavolo c'ha? Adesso sta facendo bel tempo. Bisogna individuare chi è la mia pure. Devo individuare chi è la mia. Quando non funziona che mi devo guardare qualcosa, sta qua per la quel baracchino, già funzionava ma stesse. Uscire. Cosa via? Funziona la tua baracchino. Tu prova a vedere se funziona. Prova non posso provare che faccio capo grosso io. Ma cosa, dimetti, così lo lasci stare. Capito? Mi metti per esempio lo strumento, il rosmetro. Dal rosmetro all'uscita del baracchino, lì dove c'è l'uscita del baracchino, lì li metti un RG58, poi lo porti giù. Fa portare vicino con uno spinotto, gli attacchi il PL, lo spinotto dell'antenna, li fai così, tu attacca a vedere se funziona. Ma vedi tutto? Sì. Io anni addietro, quando ho iniziato a usare il baracchino, usavo l'antenna di casa, dalla TV, per sentire meglio, peggio. Ci ho provato. Comunque se tu la provi, forse il VHF non funziona, il canale Rai, dai. Qualche canale Rai, forse Rai 1. Ma io te li vedi tutti, ho capito. Ci avevi scommesso. Vabbè. Perché la Rai trasmette in orizzontale, capito? Ma lo sapeva la mortante, alla passo. Dove dieci è la portante? Che c'è una putta, non ti ha divertito. Kappa, ma tu la ricevi, sì? Sì, anche qua dove dieci. Lasciami del culo. Io quando devo vederne qualcosa tocca fare così perché non mi funziona. Non mi funziona l'antenna. Sì, sarà la miscelatore tu. Sarà la miscelatore. E va a comprendere la carriera nostra. E ti do un padrone di casa, lui te lo dirà chi è. Non mi pare non ne comprendi nulla. Tocca cercarmela io, mi sa. Vabbè, comunque già lo sai fare, non è che non sei voluto ti imboccano. Ma già lo vedo, che l'ha fatto? L'ho già fatto io tutte le altre cose. Adesso se devo guardare il Gran Premio la prossima settimana, su TV8 devo farare il cavo e attaccare l'antenna del baracchino. Controllati l'antenna. Sali un attimo e vedi un po' chi è. E quanti siete in quel palazzo? Allora, questa qua... siamo un po'. Cioè, ci sono io l'altro appartamento, qua tanta in acqua. Cazzo, ma non riesce a comprendere la mia. Ma che cosa pulita la mani fatti in due? No, perché è tutto l'impianto, capito? Che se ne frega? Tu la fai per i fatti tuoi. Allora sei tranquillo, perché se avete problemi, hai problemi tuoi, hai problemi lui. La tua famiglia, poi se tu ce l'hai per i fatti tuoi, sei tutto tranquillo. Io so mai da chi, so mai da cucimiao, mia. Cosa mai da che cosa così, ma non di più. La portata da importante. Devo andare, Giccio. Ma non è qualcuno che ci ha dimenticato a Bessa, no? Può darsi. Non me ne può fregare nemmeno. Già, tu sei. Sei tutto quanto. Ciao.